Dunque abbiamo ancora, dicevo, due comunicazioni, quella di Rocco Pititto, Tacere o parlare su Dio, Wittgenstein, e l'indicibile, l'altra del professor Savignano, che può accomodarsi al tavolo della presidenza, Silenzio e inquietudine religiosa in Henri Bremont. La parola al professor Pititto. Il primo assunto di questa mia comunicazione è di considerare il linguaggio religioso come attraversato da una doppia articolazione, il silenzio e la parola. Il secondo momento è di narrare una specie di incursione nei testi di Wittgenstein per vedere se questo schema si ritrova e fino a che punto. L'incursione si svolge secondo tre momenti, o tre cerchi, il mistico o il silenzio su Dio, lo spazio del religioso dall'interrogazione all'invocazione, il terzo momento, il terzo cerchio, la fede come passione. Io, per rimanere nell'ambito dei 20 minuti, salto questa prima parte, cioè sul silenzio su Dio, e mi limito a parlare sugli altri due punti. Come problema irrisolto, l'interrogativo religioso è sempre presente alla coscienza di Wittgenstein, che ne esplora i confini quasi per delimitare uno spazio entro cui l'interrogativo stesso possa essere posto e riproposto. È un interrogare che nel corso degli anni assume toni e caratteri diversi in relazione ai problemi e alle esigenze del momento. L'esistenza di Dio, Dio giudice, il peccato, il cristianesimo, la fede religiosa, si trasformano di volta in volta in interrogativi, dai quali Wittgenstein si attende risposte certe, attestandosi su una linea di riflessione inquieta, dove si incontrano pensatori come Pascal e Kierkegaard. In realtà il filosofo, pur attraversato dal dubbio e dalla paura, appare alla ricerca di una verità o di una certezza che potesse dare senso alla sua vita. Le sue scelte di vita, tanto radicali, stanno a testimoniare come la domanda iniziale di certezza non abbia mai avuto una risposta definitiva. Di qui quel riproporsi continuo dello stesso interrogativo fondamentale, maggiormente presente negli scritti a carattere più personale, mentre rimane sullo sfondo nelle altre opere, dai diari segreti ai quaderni 14-16, fino ai pensieri diversi, passando attraverso lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia, la credenza religiosa, è tutto un chiedere e un interrogare, e si può ben dire che Wittgenstein sia riuscito nell'intento di ritagliarsi uno spazio per l'interrogazione religiosa, che diventa spesso invocazione. Le opere maggiori del filosofo in realtà danno di Wittgenstein l'immagine del ricercatore che apre faticosamente le vie al pensiero filosofico. Sono vie ancora inesplorate che richiedono un esercizio di riflessione a cui il filosofo si dedica con assoluta dedizione e con coraggio, come lui scrive più volte. La domanda di senso, di questo si tratta, è affidata a una riproposizione dei problemi da un punto di vista linguistico, che significa anche dissoluzione di essi. I percorsi delineati nel Tractatus troveranno nelle ricerche filosofiche degli sviluppi in una continuità di indirizzo che solo separando artificiosamente tra loro le ricerche dal Tractatus si può ignorare o semplicemente negare. Ma ciò che nelle opere maggiori è soltanto accennato o rimane sullo sfondo assume rilevanza nelle altre opere, fino ad avere a quest'ultime un'immagine del filosofo completamente diversa. La frammentarietà e la contraddizione dei riferimenti sparsi in questi scritti non consentono di delineare un sicuro itinerario del filosofo verso uno sbocco decisamente religioso, senza dimenticare che le incertezze e i pensamenti sono tali da giustificare una specie di sospensione di giudizio. Ma già dalle pagine dei diari segreti emerge un Wittgenstein inquieto, ossessionato e tormentato, incapace di entrare in rapporto con gli altri, chiuso in se stesso. Solo l'invocazione a Dio può rasserenarlo dandogli nuova forza per andare avanti. tenendolo lontano dal suicidio, idea ricorrente per diverso tempo, a cui pensa come soluzione finale all'incapacità di vivere. Realmente, sono parole di Wittgenstein, l'uomo ha bisogno soltanto di Dio. Per questo il filosofo chiede che sia fatta la sua volontà, pregando Dio che rimanga sempre con lui, gli conceda la ragione e la forza, lo illumini e lo aiuti. Dall'aiuto di Dio il filosofo ha assoluto bisogno e non se ne vergogna nell'affermare. Egli sa di essere un infelice disgraziato, un pecore, ma sa anche che attraverso Dio egli può diventare un uomo e assumere una condizione decente, perché in definitiva Dio è amore e tutto è nelle sue mani. Più tardi scriverà che la religione cristiana è solo per colui che ha estremo bisogno di aiuto e dunque solo per chi prova un estremo sconforto. La fede cristiana, così io penso, è il rifugiarsi in questo supremo bisogno di aiuto. Ma aprendosi a Dio si finisce per aprirsi anche agli altri, perché lo sconforto più grande è quello di un uomo che si sente perduto. Non sono parole di circostanze o espressioni pleonastiche, perché esprimono di fatto un orientamento dell'esistenza in senso religioso. E qui la difficoltà, la parte di Wittgenstein, di seguire fino in fondo la critica di Nietzsche al cristianesimo, pur trovando nei suoi scritti qualcosa di vero. È un testo abbastanza significativo che leggo per intero. Certamente il cristianesimo è l'unica via sicura per la felicità. Ma che succede, si domanda, se si rifiuta quel tipo di felicità? Non sarebbe meglio andare tristamente alla deriva, nella lotta senza speranza contro il mondo esterno? Ma una vita del genere è priva di senso. E perché non condurre una vita senza senso e indegna? Come si accorda questa con il punto di vista rigorosamente solipsistico? Ma che cosa devo fare affinché la mia vita non vada sprecata? Devo sempre essere cosciente dello spirito, essere sempre cosciente. Questa è la sua conclusione. Sono domande ricorrenti che coinvolgono l'esistenza del filosofo e ne mettono a nudo i lati deboli, la mancanza di senso, la lotta impari contro il mondo esterno, il pensiero di sprecare la propria vita. E invece contro tutto si desidera una vita piena di senso, nella certezza di non sprecare la propria vita, nella lotta che attende l'uomo contro il mondo esterno. Diventa allora necessario per Wittgenstein vivere solo per il proprio spirito e per tutto il resto confidare in Dio. Il filosofo da parte sua ha già sperimentato la presenza di Dio e sa che anche nel futuro Dio sarà sempre presente. La sua vita, d'altra parte, è una lotta contro la sua natura maligna. Sono parole di Wittgenstein. Continuo a vivere nel peccato, gli scrive. Sono, cioè, infelice. Sono seccato e senza gioia. Vivo in discordia con tutti quelli che mi attorniano. Proprio da questa consapevolezza di perdita di sé nasce la ricerca di aiuto. Dio dando l'energia, la forza interiore di affrontare le pene dell'anima. Sono queste alcune delle espressioni che ricorrono frequentemente nelle pagine dei diari segreti, quasi ad ogni pagina, aprendo degli squarci che illuminano la personalità del filosofo e il suo atteggiamento religioso fondamentale. Egli è un uomo che lotta disperatamente contro le tendenze negative del suo essere, di cui ha piena coscienza, mentre vorrebbe presentarsi decente, è un'espressione che lo usa frequentemente, agli occhi di Dio e a se stesso, ma senza riuscirci. E la sua preghiera diventa insistente. Dammi aiuto, illuminami, ma sia fatta sempre la tua volontà e non la mia. Richiesta di aiuto e sottomissione alla volontà di Dio sono gli elementi della invocazione del filosofo. Su questo registro Wittgenstein costruisce le pagine più incisive dei diari segreti, che sono per questo qualcosa di più rispetto a un semplice affidare i propri pensieri del momento, perché niente vada perduto. Sono piuttosto le voci di dentro che riemergono con forza nel momento in cui il filosofo è maggiormente esposto al rischio della perdita di sé. E qui Wittgenstein recupera uno spazio per l'invocazione. Di Dio non si può parlare, ma interrogandolo lo si può invocare. Solo dopo averlo invocato sarà forse possibile parlare di Dio. L'invocazione che segue all'interrogazione costituisce lo spazio religioso possibile. ed è perciò pienamente significativa. Quando però dall'invocazione si passa a costruire una teoria, si rischia di cadere inequivocabilmente nell'errore, e Wittgenstein non accetta di conseguenza questo passaggio. I testi da citare a questo proposito sarebbero numerosi, ma me ne astengo per rientrare sempre nei limiti del tempo. Da questo punto di vista, cioè dal rifiuto di Wittgenstein di considerare il cristianesimo come una teoria, si comprende l'atteggiamento del Wittgenstein di fronte al cristianesimo. Da esso doveva eliminare ogni forma di dottrina per attestarsi alla sola invocazione, espressione che egli poteva comprendere e accettare. La religione cristiana, pertanto, non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è stato e sarà dell'anima umana, ma una descrizione di un evento reale nella vita dell'uomo. Infatti, il riconoscimento del peccato è un evento reale, la disperazione pure, e così anche la redenzione mediante la fede. Chi parla di queste cose si limita a descrivere ciò che è accaduto a lui, qualsiasi cosa si possa dire in merito. La verità storica non è importante a questo livello, difatti il cristianesimo non si fonda, lo afferma, su una verità storica, bensì ci dà una notizia che è storica, dicendo adesso credi, ma non dice credi a questa notizia con la fiducia che spetta a una notizia storica, bensì credi al di là da ogni ostacolo, e questo tu lo puoi soltanto come risultato di una vita. Ecco una notizia. Ma non ti comportare verso di essa come verso un'altra notizia storica. Fa che essa occupi nella tua vita un posto del tutto diverso. Non c'è nulla di paradossale in questo. Rileva sottolineare qui come queste riflessioni non siano affatto isolate nel contesto della sua opera. Da una parte rimangono alle considerazioni sviluppate nelle lezioni e conversazioni sull'etica, dall'altro si esaltano alle concezioni più generali di Wittgenstein in ordine al problema del mistico, di cui non si può parlare, ma si può solo mostrare. E qui c'è un richiamo possibile da farsi, ed è un richiamo a Pascal e al suo Deus, al suo Deus. C'è un testo che non leggo, ma penso che sia abbastanza pertinente. Ecco, l'ultima considerazione che vorrei fare, non so se riesco a portarla a termine, è di considerare la fede come passione. E l'ultima, strada a cui arriva la Wittgenstein. L'invocazione costituisce, in definitiva, la soglia su cui si attesta la Wittgenstein. Ma ne aggiunge attraverso l'interrogazione, che ne dilata i confini. Non è tuttavia un'invocazione generica a una divinità astratta, perché si riferisce di fatto a una religione storica particolare, al cristianesimo nella fattispecie, di cui il filosofo conosce il corso dottrinario e ne comprende le ragioni. D'altra parte, sa dell'importanza di Cristo nella storia e lo afferma esplicitamente. Quale sarebbe, si domanda, quale sarebbe il nostro sentimento se non avessimo sentito parlare di Cristo? Avremmo il sentimento dell'oscurità e dell'abbandono. Non abbiamo solo quel tanto che non l'ha il bambino se sa che c'è qualcuno con lui nella stanza. Non è perciò meraviglia se Wittgenstein si interroga tanto frequentemente sulla religione cristiana, sulle sue concezioni, fede, giustizia, predestinazione, redenzione, immortalità. Egli stesso era di famiglia cattolica. Secondo il filosofo, lui, trovandosi a vivere in un ambiente cristiano, riprende da questo ambiente domande a cui non si poteva sentire. Ma in realtà il filosofo non risponde a molte di queste domande che lui stesso si pone, ma che considera infondate, piuttosto ne formula altre sotto forma di dubbio, nel tentativo di introdurre degli elementi di chiarificazione, e le risolve recuperando un'idea di fede rigorosa, di una fede paradossale. Secondo il filosofo va a escludere quelle domande che richiedono delle spiegazioni di natura causale. Ci stanno molti testi. Ora, la questione è se bisogna rifiutare tutte le spiegazioni che rimangono a una spiegazione causale, la questione religiosa ritorna al punto di partenza. L'esistenza di Dio non può essere provata scientificamente, perché legata a forme di comprensione soggettiva, e la soggettività che raggiunge l'idea di Dio. Di qui l'interrogativo di fondo sottostante all'interrogazione di Cristiania sul come sia possibile continuare a parlare di Dio di ciò che non si vede. Certo, sono possibili delle esperienze, come l'esperienza della sofferenza, capace di portarci a Dio, ma queste non ci indicano Dio come una sensazione, ci indica un oggetto, e neppure ce lo fanno congetturare. Il ricorso alla fede assunto dalla vita cristiana costituisce lo sbocco inevitabile di un pensiero che non rinuncia alla trascendenza, ma vi giunge per vie traverse. Lo scotto pagato è una fede senza condizioni. È una fede, diciamo, assurda, che non ha delle ragioni plausibili da presentare e, dice, come dicevo prima, si colloca su una linea già percorsa da Pascal e da Kierkegaard in una continuità che io trovo sorprendente. E qui per ne dico di conseguenza che le parole del credente hanno un loro significato particolare e questo non può essere riconosciuto tale dal non credente, proprio perché il significato ultimo è dato dalla fede, che diventa un sistema di riferimento e rimanda alla vita, nella quale le parole stesse trovano o devono trovare espressione. È vero che il credente non ricerca, né può ricercare spiegazioni di tipo causale per le parole che usa, ma non per questo la religione cristiana perde la sua consistenza. Né d'altra parte, mancando queste spiegazioni, diventa legittimo assimilare una fede religiosa a forme di superstizione. La fede religiosa è un confidare, dice Wittgenstein, mentre la superstizione scaturisce dal timore ed è una sorta di falsa scienza. Di più, ciò che il filosofo cerca dalla religione cristiana e perciò dalla fede cristiana è la certezza. Una certezza che possa parlare soprattutto al suo cuore e alla sua anima. Di fronte a questa certezza, la paura a cui Wittgenstein associava precedentemente la sua professione religiosa non avrà motivo di entrare a far parte dello specifico religioso. Nella sua interrogazione Wittgenstein non arretra nemmeno di fronte al mistero, piuttosto avvicinandosi ad esso, ne scandaglia le profondità per riaffermare ancora una volta la certezza della fede che egli ricerca e nella quale si abbandona. È assai significativo questo riguardo un testo del 1937, in cui il filosofo si interroga sulla resurrezione di Gesù Cristo, verità nella quale riconosce di credere. Il senso della domanda ruota attorno alla distinzione paolina tra la sapienza umana e la realtà della fede, sul presupposto della vacuità della sapienza umana di fronte agli orizzonti dischiusi dalla fede. Che cosa porta anche me, si domanda Wittgenstein, ad avere fede nella risurrezione di Cristo, se non la forza della fede, soggiungo io, dopo che ogni argomento si rivela improprio. La fede nella risurrezione fa parte, perciò, della professione religiosa del filosofo, tanto da coinvolgerlo esistenzialmente. Wittgenstein, in definitiva, recupera una sua identità per chi crede nella risurrezione. Egli è convinto che senza la risurrezione, sono parole sue, Gesù sarebbe morto e putrefatto, e di lui di conseguenza rimarrebbe un messaggio morale come di un qualsiasi maestro, ma non potrebbe essere questo messaggio di alcun aiuto per l'uomo. E noi, osserva Wittgenstein, di fronte a questa eventualità siamo di nuovo in esilio, soli, e possiamo accontentarci della sapienza e della speculazione. Siamo, per così dire, in un inferno, dove possiamo solo sognare, separati dal cielo come da un soffitto. Di questo maestro non si ha alcun bisogno, perché non dà alcuna certezza. Ma l'uomo non ha bisogno di sognare o di speculare, ha bisogno di certezze, e questa gli viene data vivendo nella fede. Ed è qui che inizia la sua redenzione. Perché se devo essere veramente redento, ferma Wittgenstein, allora ho bisogno di certezza, non di sapienza, sogni, speculazioni, e questa certezza è la fede. Ma la fede di cui parla il filosofo non ha bisogno di parole per essere espressa. Essa è fede in ciò in cui ha bisogno il mio cuore, la mia anima, non il mio intelletto speculativo, perché è la mia anima con le sue passioni, quasi con la sua carne, il sangue, che deve essere redenta, non il mio spirito astratto. Detto in altri termini, sono sempre parole del Wittgenstein, soltanto l'amore può credere alla risurrezione, oppure è l'amore che crede alla risurrezione. C'è qui una chiara adesione al cristianesimo che diventa ancora più esplicita quando Wittgenstein, riprendendo Paolo, sempre in questo stesso brano e anche in brani successivi, collocabili verso la fine degli anni 40, perciò qualche anno prima era morto, ecco, diventa questa professione diventa esplicita quando Wittgenstein, riprendendo Paolo, afferma che la sapienza di questo mondo è un sogno, mentre la fede è amore, e cioè volontà di non dubitare. A questo livello di accettazione e di comprensione del cristianesimo potrebbero risolversi i problemi più controversi sui quali il filosofo più volte nel corso della sua vita si è interrogato. Da questo punto di vista, per esempio, i resoconti storici dei Vangeli potrebbero, se intesi nel senso della storia, essere dimostrabilmente falsi, e tuttavia la fede non ci perderebbe nulla. La dimostrazione storica non ha nulla a che fare con la fede. Questa, dice Wittgenstein, è la sicurezza di questo tenere per vero, non altro. Ed è una sicurezza che non è meno sicura delle convinzioni in una verità matematica. La mediazione della ragione non ha quindi alcuna funzione da svolgere. L'orizzonte dischiuso da una fede così radicale non rappresenta necessariamente per il credente e per lo stesso filosofo la fine del tutto, come Wittgenstein stesso si attendeva. Rimane la convinzione di fondo che la saggezza è qualcosa di freddo e perciò di stupido. La fede invece è una passione. Piuttosto, mi viene da pensare appena Wittgenstein che una fede religiosa possa essere solo qualcosa come un appassionato decidersi per un sistema di riferimento. Dunque, benché sia una fede, è anche un modo di vivere, di giudicare la vita, è un modo appassionato di adottare una certa concezione. Posseduto da questa passione, il filosofo sa di avere la certezza, ma insieme teme e treme, cioè dubita. La sua fede, infatti, è in qualcosa o qualcuno che non si mostra e potrebbe perciò rivelarsi falsa o quantomeno diversa. Essa, di conseguenza, deve convivere con il dubbio. In fondo, è la stessa posizione è esplicitata al Vite che sta nel Trattato, nell'aforisma 7. Di cui il valore della comunicazione della fede religiosa nei termini di una istruzione che dovrebbe essere quindi la rappresentazione di quel sistema di riferimento. La sua descrizione insieme un appellarsi alla coscienza. Come risultato di questa comunicazione, Wittgenstein si attende che la persona a cui l'istruzione è stata trasmessa accogliesse con passione quel sistema di riferimento di sua volontà. E qui del resto si gioca il destino di una fede religiosa. È come se qualcuno mi mostrasse da un lato la mia condizione di speranza, dall'altro mi offrisse uno strumento di salvezza fino a che, fino a che spontaneamente o comunque certo, senza essere preso per mano dall'istruttore, io mi precipiti su di esso e lo afferro. La fede in definitiva è questo precipitarsi su un abisso e questo afferrarsi a qualcuno che non si vede. È un rischio che vale la pena accettare. E qui, prima di concludere, vorrei ricordare quel brano famoso in cui paragona il pensatore religioso a un funambolo che rimane sempre in equilibrio, un equilibrio instabile, ma ha il funambolo sempre la possibilità di stare attaccato a questo filo. Ho finito. Grazie. Ringraziamo Pititto per il bel contributo che ci ha portato, stimolante, arricchente, provocante.